A bordo campo di Dario Ricci. Storie di un'altra Olimpiade, un'Olimpiade lontana più di un secolo, Atene 1896, la prima di tutte le Olimpiadi moderne. Oggi a bordo campo un tuffo nel passato, ma anche un tuffo nelle emozioni a cinque cerchi, con la voce di Biagio Vinella, il nostro ospite, attore, soprattutto cantastorie, e spesso qui a bordo campo cantastorie di personaggi e protagonisti della storia dello sport. Benvenuto Biagio, ben ritornato anzi a bordo campo. Grazie, grazie. Oggi raccontiamo una storia di più di un secolo fa, della prima Olimpiade, sì, dicevamo, Atene 1896, quella maratona vinta dall'eroe greco per eccellenza, Spiridon Luis, l'uomo che fece rivivere il mito di Filippide, ma poteva essere un italiano. Invece di quello Spiridon, poteva essere tale Carlo Airoldi d'Origio, nato il 21 settembre 1869. Chi era questo Carlo Airoldi, Biagio? Allora, Carlo era un operaio con una grande passione per le gare, le corse, ma le corse lunghissime, no? Per esempio, allora si usava, parliamo del 1870, 80, si usavano a fare queste gare tipo la Milano-Torino, e lui le vinceva, la Milano-Como. E lui era un grande, era un grande atleta. Era anche uno che lavorava anche per arrotondare nel circo, per esempio, faceva il sollevatore di pepe, faceva di tutto, faceva. Era un personaggio molto particolare. Cioè, proprio noi come ci immaginiamo un personaggio di quell'epoca, per cui fisicato, non molto alto, baffoni, e questo era lui, era questo Carlo Airoldi, veramente un personaggio molto particolare. Grande, grande atleta, come dicevi, grande anche per molti aspetti, saltimbanco, no? Di tante, a cogliere l'occasione come veniva, sfruttando questa abilità nel Certo, podismo. podismo in tutto. Lui era veramente lo so, faceva anche i combattimenti, per esempio, combattimenti nelle fiere. Era un personaggio, un grande personaggio. E poi era appunto, un podista straordinario, no? Straordinario, infatti, anche perché per vincere queste gare bisogna avere un coraggio, una forza e una resistenza impressionanti. E diciamo che forse ecco la chiave di tutto di questo racconto non è tanto le Olimpiadi del 96, ma è una cosa che c'è stata prima. Ovvero sia questa gara Eh sì. che viene organizzata, parte da Torino, Marsiglia, arrivo a Barcellona, cioè 1020 km, parliamo di una gara. Alla partenza da Piazza Carlo Felice ci sono 11 atleti, un francese, Luis Ortega, francese bello. Come noi ci immaginiamo un francese bello, no? Un bello alto, Con fisico la sua anche lui, bella R un moscia, no? I bel francese, sì, mustacchi. è proprio un bel francese. D'altra parte, l'altro, non piemontese, è appunto Carlo Airoldi, col fisico che abbiamo descritto prima, e poi c'è un manipolo di atleti piemontesi. Avventurieri, insomma. Avventurieri, sì, perché comunque 1020 km sono una roba veramente impressionante. Questa marcia poi aveva un senso, voleva essere una marcia che legava la pace, cioè era una marcia di pace, per cui c'era già un significato anche importante. Partono in questa avventura, dopo poco, diciamo, dopo non moltissime tappe, rimangono praticamente in due, Ortega e Airoldi, che viaggiano appaiati, no? Per cui consideriamo che dura parecchio, hanno tempo anche per frequentarsi, per diventare amici, mangiano insieme, dormono insieme, ripartono la mattina per fare la loro gara, però sono sempre vicini, cioè sono Sempre insieme e vanno l'italiano avanti. e il E francese, francese, eh? ormai Il gli altri francese e l'italiano. sono un ricordo, gli altri, no? E arriviamo appunto, superiamo Marsiglia, arriviamo a Barcellona, cioè stiamo per arrivare a Barcellona. Eccola là, la vediamo, eh? Stiamo per entrare in città. C'è anche un seguito impressionante di gente, la gente ai bordi delle strade, perché comunque era un'impresa eccezionale. Settembre 1895, erano Esatto, partiti da Torino, da eh? Torino, sono per dire, no? Proprio una cosa straordinaria. E arriviamo all'ultimo chilometro. Carlo Airoldi decide di andare via, perché lui ha il fisico, ha la forza per andare via. Parte, va. Si volta e si rende conto che Luis Ortega è in difficoltà. Va ancora avanti, no? Poi si volta ancora e vede che non solo è in difficoltà Luis Ortega, ma è accasciato per terra. A questo punto mancano ormai 800-900 metri al traguardo. Lui cosa fa? Non se la sente. Torna indietro. torna indietro, si carica sulle spalle il francese e in mezzo alla folla incredula a questo punto taglia il traguardo specificando bene: il primo sono io, ma era assolutamente al di fuori di ogni dubbio ragionevole, no? Che lui fosse lui il primo, e vince, sì, arriva primo in questa straordinaria maratona, chiamiamola come si vuole, no? Io sono primo, l'avversario è con me ed è secondo, così disse Carlo Erozzi, esatto. Sì, perché gli stava sulle spalle. Più di così non potevano, per togliere qualunque tipo di dubbio. Barcellona accoglie questo gesto con una grande simpatia, con una grande commozione, anche sui giornali viene riportato. Il sindaco cosa fa? Decide di dargli un premio perché insomma non ce n'erano, gli dà questo premio in denaro che non si capisce bene se siano 600 pesetas, se siano 2000, ma non è importante, non erano dei grandi soldi. Quanto saranno amari quei soldi un anno dopo? Quando saranno amari quei soldi, lui cosa fa poi? Non è che se li tiene, li divide con il francese, vanno a mangiare, tornano in treno, si salutano, si danno l'addio. Un'avventura straordinaria. Torna e a un certo punto decide di... Eh sì, da lì a un anno c'era un'altra grande avventura da vivere, da protagonista, e un oro il più ambito da andare a vincere. Atene, prima Olimpiade, 1896. Carlo Airoldi però ad Atene non poteva andarci in modo troppo banale, no? No, infatti. Cioè, magari lui ci sarebbe anche andato in modo banale, ma non avendo soldi decide di fare la cosa più economica al mondo, andare a piedi e di corsa. Cioè proprio lui decide di andare... fino ad Atene correndo e a piedi. Allora ha diverse avventure, disavventure, viene consigliato anche quando va in Albania di prendere un piroscafo. Sta di fatto che questa avventura, diciamo, dei Roldi crea un seguito impressionante, anche perché poi lui, per riuscire a gestire un po' di soldi, di poter vivere, faceva un diario praticamente in diretta con questo giornale dell'allora, che era la bicicletta. Esattamente, sì. E manteneva un diario in cui scriveva i posti in cui andava, quello che era successo, la gente, quello che... Pensate a questo diario attraverso l'Austria, l'Impero Ottomano, la Grecia, fino ad Atene, fino all'ombra del Partenone, a piedi, dal 28 febbraio del 1896, 70 km al giorno per arrivare ad Atene tramite varie peripezie, perché poi capitò anche di sbagliare strada. Sì, sì, diciamo che... però ci arriva e cosa fa? Va a iscriversi praticamente a furor di popolo a questa Olimpiade, dove era assolutamente il favorito. Sta di fatto che... entra a Palazzo Reale, vero? Sì, entra per andare a scriversi. Comitato Olimpico Internazionale. Olimpico, presenta la sua iscrizione. Al re Costantino, che era il presidente. E gli viene rifiutata per via di quel compenso, che per loro era un compenso, ma non era un compenso. Il compenso, quello di Barcellona di un anno prima, cioè, quelle poche centinaia di pesetas. Sì, loro dissero che lui era un professionista. A questo punto lui prova in tutte le maniere a cercare di dimostrare il contrario, che non era così. Non ci riesce. La sua candidatura viene annullata, viene respinta. E a questo punto, con i pochi soldi che gli rimangono, lui va lì e si mette proprio esattamente sulla linea di arrivo, dove è arrivato poi Spiridon Lewis. Eh sì, lui scrive così, Carlo Airoldi, in una sua testimonianza, no? Per la bicicletta di quei giorni. Fino all'arrivo mi mantenni tranquillo e calmo, ma quando arrivò il primo e si sentì il colpo di cannone, allorché la bandiera greca si innalzò, non mi sentii più padrone di me. Vedere arrivare il primo in mezzo a tanta festa ed io non poter correre per delle ragioni assurde, fu il più grande dolore della mia vita. E poi scrive ancora: dopo tutto però mi consolo, perché a piedi vidi l'Austria, l'Ungheria, la Croazia, l'Erzegovina, la Dalmazia e la Grecia, la bella Grecia che lasciò in me un ricordo indelebile. Beh, Biagio, è incredibile questo amore che Carlo Airoldi riusciva ancora nel momento più amaro della sua vita a manifestare per quella terra in cui, oltre a vivere questa amarezza, però ancora riusciva a rivedere risplendere gli ideali olimpici. Sì, diciamo che il suo legame penso che fosse più riferito al popolo, cioè alla solidarietà, alla gente che aveva incontrato su queste strade, che veramente gli dava da dormire, gli dava da mangiare. Sono cose, secondo me, che non si possono dimenticare. La bellezza, la poesia di questa cosa. Ecco, lui era un poeta imprestato alle gare. Era questa forse la sua logica, il suo modo di vivere. Questo era caro Leroldi. Possiamo concludere oggi che forse un bel pezzo di quell'oro vinto dall'eroe greco Spiridon Louis, lo ricordiamo, umile portatore d'acqua che conosceva Atene come nessuno e quindi anche per questo riuscì a conquistare quel successo, un bel pezzo di quell'oro forse è anche almeno moralmente di Carlo Eroldi. Sicuramente, anzi. E allora grazie a Biagio Vinella per essere stato oggi nostro ospite e per averci ricordato l'epopea di questo grande, antico e moderno eroe dello sport. A bordo campo. Storia di un'Olimpiade che non c'è mai stata. Beh, stiamo camminando a passi rapidissimi, anche qui a bordo campo, anche qui a Radio 24, verso Londra 2012, no? Il conto alla rovescia ormai è iniziato da tempo e sta quasi per scadere. Stiamo aspettando la cerimonia inaugurale. E allora, proprio in questi momenti, secondo me è importante ritornare a vedere quella che invece è la storia dei cinque cerchi e anche di quei giochi che non ci furono. Una storia che oggi vi raccontiamo grazie alla sapienza artistica e alla voce del nostro amico cantattore, mi piace definirlo, perché Biagio Vinella, che oggi è il nostro ospite, le storie le racconta ma le canta, soprattutto quello dello sport, come fosse un vero e proprio aedo dei valori olimpici dei cinque cerchi. Benvenuto Biagio al nostro microfono. Grazie, eccomi qua, ciao. Allora, di tante Olimpiadi che ci sono state, di una che sta per esserci, Londra 2012, oggi parliamo di un'Olimpiade che non ci fu. 1936, sì. Il 9 agosto 1936 c'è l'inaugurazione, l'apertura ufficiale dei giochi olimpici di Berlino, i giochi del Führer, i giochi del nazismo. E pochi giorni prima avrebbero dovuto esserci, da tutt'altra parte, tutt'altri giochi olimpici. Quali, Biagio? Allora, la frase era questa, che diciamo la carta d'identità di queste Olimpiadi. Dimostreremo al mondo intero che oggi il vero spirito olimpico non sta a Berlino, ma qui. Per cui si intende Barcellona. Siamo in Spagna, siamo il 19 luglio 1936, erano le Olimpiadi popolari, le Olimpiadi operai, le Olimpiadi di democrazia, perché in quel momento questa voleva essere veramente la dimostrazione che anche lo sport poteva fare qualcosa contro il mostro che stava per ingoiare l'Europa intera e tutto il mondo. E allora circa 6.000 atleti arrivarono appunto a gareggiare che volevano gareggiare in queste Olimpiadi. Diciamo le Olimpiadi, per sintetizzare, quasi operai e socialiste, sì, contro, esatto, quelle che da buona parte del mondo civilizzato, che non aveva ancora piegato la testa al nazismo, erano viste come le Olimpiadi del fascismo, le Olimpiadi, sì, del Führer, le Olimpiadi che all'insegna del razzismo già evidente, perché lo, certo, ricordiamo, fin dal 1933 il nazismo era salito ufficialmente al potere in Germania, ebbene aveva di fatto esteso la sua ombra sui cinque cerchi olimpici. Allora, diciamo, tutta la sinistra europea, buona parte della sinistra europea, divisa come al solito, e qua il tempo non è passato in vano, però prova a dire no e a organizzare delle controolimpiadi, no? Proprio, sì, a Barcellona. Perché? Perché Barcellona in quegli anni era la Spagna che diceva no, esatto, esatto, al franchismo, e stava per dir no perché la guerra civile stava per iniziare. Certo. Infatti era una chiave importante questa, una chiave politica importantissima questa di Barcellona, della Spagna. E la cosa straordinaria fu appunto questi atleti che venivano da tutte le parti del mondo. Non so, la delegazione francese era composta da 1500 atleti, dirigenti, accompagnatori, e venivano da un'intera squadra di calcio ebrei. Erano venuti tutti per fare queste Olimpiadi. Oltre a questo, dall'Italia, da tutte le parti del mondo, Nuova Zelanda, Australia, era questo. La cosa straordinaria era che c'era stata l'abolizione delle bandiere e degli inni nazionali, perché era questa la chiave. Cioè, lo sport doveva essere un qualcosa di assolutamente trasversale, in cui non c'era il mito della nazione. Era anche questa una delle chiavi di lettura di questa manifestazione. Questa manifestazione che doveva cominciare il 19 di luglio, però 19 di luglio inizia un'altra cosa. Inizia un'altra cosa, si sentono per le strade di Barcellona, sì, esatto. Ecco, immaginiamoci un po' là per le Ramblas, sì. Noi magari atleti sarebbe stato bello, avremmo vinto, ma noi che ci piace il rugby forse non c'era, no. Sentiamo degli scoppi fuori dalla finestra, sì, e sì. Immaginiamo, dice, beh, vedi, la città accoglie la festa, no? Stiamo per iniziare i grandi giochi, invece cos'erano quelle esplosioni? era la rivolta di una parte dei militari che si appunto cercavano di demolire quel sogno che si stava creando in Spagna. I franchisti entravano in azione. Entravano, e a questo punto ci fu proprio una guerra civile all'interno di Barcellona, durata pochi giorni, perché poi vennero debellati, vennero sconfitti in fretta. E qui, per tornare alle Olimpiadi, abbiamo questo: le Olimpiadi vengono sospese. Per il momento, e verranno annullate dopo qualche giorno, quando la cosa diventò molto più, si capì la portata di questo evento negativo. Gli atleti che erano arrivati lì, e questa era la chiave, loro che cosa potevano fare? Allora voi pensate, cioè pensa magari a questo atleta che viene lì per fare una gara e si trova in mezzo a una guerra civile. Certo, la sua partecipazione era chiara, che era una partecipazione politica, era una partecipazione legata a una dimostrazione di queste cose. E allora a questo punto cosa succede? Che cercano, molti tornano indietro, qualcuno rimane lì. Ma rimane lì a fare che cosa? A combattere. Per cui tu, un atleta, prende e incomincia a combattere contro i franchisti. Nel giro di una notte o di pochi giorni, da atleta a soldato, da atleta a miliziano. Sì, sì. Certo, da atleta a miliziano. Perché quello non era più il tempo degli interrogativi risolti, era diventato in poche ore il tempo di decidere da che parte stare. Esatto. Per cui, diciamo, i vari governi delle altre nazioni cercarono di portare a casa i più atleti possibile della loro nazione, ma molti dissero di no, molti rimasero lì, no? E tra questi, appunto, questa è la storia di questo... C'è un atleta in particolare, sì, ce n'è uno, che è diciamo, rimasto nella memoria, sì, studiando questo, sì, sì, capitolo della storia olimpica. È un atleta tedesco, Otto Bock, anche lui che era dato via dalla Germania già da anni perché era perseguitato, chiaramente era contro il regime nazista. Perseguitato, va in Francia, trova asilo in Francia, dove continua appunto a fare l'atleta. Lui faceva mezzo fondo, era un mezzofondista, e si trova proprio nel pieno di questo momento. Va a Barcellona per le Olimpiadi e si trova dentro e decide appunto di imbracciare il fucile. E allora in questi giorni si dà da fare per imparare anche a combattere, perché non era certamente non era capace a combattere. Combatte e si ferma e entra nelle brigate internazionali e va a combattere sul fronte di Saragozza. La cosa che più mi ha colpito della morte di questo atleta, perché muore appunto nella battaglia di Saragozza, fu che lui morì in una maniera particolare, cioè in pratica loro erano in tre fuori in pattuglia e un suo commilitone si era allontanato leggermente. Viene colpito, ma non muore. Sarà stato distante da lui 150 metri, non di più. Lui era riparato e questo suo commilitone continua a lamentarsi e lui non se la sente di lasciarlo lì. E probabilmente, considerando il fatto che lui correva bene, correva forte, allora dice al suo compagno: guarda, tienimi lo zaino, io vado lì, perlomeno gli do una mano. Cioè faccio qualcosa, se posso fare qualcosa. L'altro prova a dirgli: ma lascia stare, no? Possiamo immaginarlo, no? Magari dietro, nascosto in una siepe, resta qui, sì. Otto, resta qui, non andare, siamo esposti al pericolo. Aspetta la sera, poi torniamo indietro, ma questo qua continuava a lamentarsi, a chiamare, e non se l'è sentita. Allora prende, va per portargli un po' d'acqua, un minimo di conforto, arriva dall'altra parte, lo raggiunge, sta con lui, e viene raggiunto anche lui da una fucilata, rimane, muore, così. L'altro torna, aspetta la notte, chiaramente non va più lì ad aiutare loro, torna e con sé nello zaino trova le scarpe da atleta di Otto. Ecco, questa è la cosa che mi ha... Erano quelle scarpe che lui avrebbe dovuto usare. Cioè, perché uno si mette nello zaino un paio di scarpe? Vuol dire che c'è questo legame con lo sport, con l'atletica, e il suo essere atleta che c'era, era lì. A me questa è una cosa che mi ha veramente colpito, no? Cioè, nello zaino puoi mettere altre cose, ma non metti un paio di scarpe che non userai mai più. No, ma quello se è un pezzo di te, te le porti dietro in ogni, te le porti dietro in ogni momento. E lui ha fatto esattamente questo ed è morto. Poi uno dei tanti morti, della guerra civile. La storia poi segnerà il momentaneo trionfo, seppur duraturo, di Francisco Franco. L'ancor più effimero per alcuni aspetti, sicuramente meno duraturo, ma ancor più terribile per molti altri, trionfo del Führer, che proprio a Berlino, proprio in quelle Olimpiadi, esalterà il nazismo e il suo regime, seppure poi ci penserà un certo Jesse Owens a rimettere per alcuni aspetti le cose a posto. Ma oggi, attraverso la voce di Biagio Vinella, abbiamo voluto soprattutto ricordare il sacrificio non solo e non tanto di Otto Bock e di quel meraviglioso, fantastico, emozionante paio di scarpe che lo seguì fino all'estremo, ma di tutti coloro che per quell'idea di libertà e di democrazia sacrificarono se stessi e i propri sogni. Grazie a Biagio Vinella per averci raccontato questo sogno e questa storia. Grazie. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla nostra mail abordocampo@radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sulla nostra pagina web, e riascoltarci sempre attraverso il nostro sito internet www.radio24.it. L'appuntamento è per domenica prossima alle 14.30 e il sabato mattina in replica alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.